Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. In primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, bentrovati alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Iniziamo come sempre dal Sole 24 Ore, che ci aggiorna su quello che viene definito il cantiere previdenza. Ci sono state in questo paese negli ultimi anni, negli ultimi governi, tantissime riforme fiscali, e lo ricorderete senz'altro, forse la misura più contestata del primo governo Conte è quota 100, e titola il Sole 24 Ore: pensioni, spunta quota 100 penalizzata con tagli agli assegni, possibili tagli del 2,8-3% per ogni anno chiesto di anticipo. Martedì l'incontro con i sindacati per evitare il cosiddetto scalone. Trovate tutto a pagina 8 del Sole di oggi. Sempre in prima pagina, naturalmente, i richiami alla cronaca fatta dai nostri inviati del forum Ambrosetti che si svolge a Cernobbio, è il tradizionale, se vogliamo, appuntamento del rientro dopo l'estate. Conte, 2 punti, la sfida è tornare a crescere, no ai fondi dell'Unione Europea per ridurre le tasse. Conte ieri è stato sia al forum di Cernobbio sia alla festa del Fatto Quotidiano, e ha fatto molte dichiarazioni. Ha fatto un intervento al forum di Cernobbio e al Festival del Fatto Quotidiano, è stato intervistato da Antonio Padellaro, cofondatore, e dal direttore del Fatto Quotidiano .it Peter Gomez. Quindi tutti i giornali, sostanzialmente, come vedrete, titolano, scegliendo diversi angoli, su quello che ha detto Conte ieri, dopo che per circa un paio di settimane era stato silente. Dalla prima pagina del Sole 24 Ore vi segnalo anche un'inchiesta che trovate a pagina 9 su come stanno cambiando le fiere. Sapete, le fiere sono state tra i primi appuntamenti a chiudere per causa Covid, e ora si cerca di riaprire con diverse formule. Settimana prossima qui a Milano ci sarà già Milano Unica, la fiera del tessile, in un format più o meno tradizionale, ma c'è anche l'idea di fare delle fiere diffuse, come spiega Giovanna Mancini poi a pagina 9. Dalla prima pagina vi segnalo anche l'articolo di Simone Filippetti, che è a Londra da parecchio tempo ormai, e fa un po' il riassunto di Boris Johnson delle ultime settimane. Boris Johnson, leadership in declino. I sondaggi dicono questo: leader, il premier inglese, a picco nei sondaggi. Si prevedono infatti aumenti delle tasse, di questo ha parlato il cancelliere dello scacchiere, equivalente del ministro delle finanze di un governo europeo, per finanziare appunto un aumento delle tasse, per finanziare tutte le misure di sostegno all'economia che sono state varate negli ultimi mesi. Corriere della Sera titola su un'intervista al ministro della Salute Speranza, e il virgolettato è: vaccino a medici e anziani, perché siccome ammesso che arrivi appunto entro il 2020, in molti pensano che sarà primavera del 2021, in ogni caso non arriveranno dosi sufficienti per tutti, e quindi il ministro Speranza e le priorità: all'inizio avremo solo 2 o 3 milioni di dosi. In prima pagina, come vi dicevo, anche una cronaca di quello che ha detto Conte ieri. Il Corriere della Sera sceglie di titolare così: Conte, 2 punti, avevo pensato a Draghi per l'Unione Europea, vedrei benissimo un Mattarella bis. C'è poi in prima pagina una lettera di Matteo Salvini, che ricorderete quello precedente aveva scritto anche al Sole 24 Ore. In quel caso il tema era il dossier all'Italia. In questa lettera invece al Corriere della Sera il tema è quello dei verbali del Comitato Tecnico Scientifico, che contengono anche uno studio confermato poi pubblicamente da un dirigente del Ministero della Salute, uno studio sul Covid, e Matteo Salvini dice in in questa lettera al Corriere della Sera, il governo spieghi quei silenzi, perché appunto questo studio è stato, era noto dall'inizio dell'anno, ma poi è stato ufficialmente discusso poi soltanto a pandemia già diventata emergenza sanitaria ed economica. La fotonotizia è quella di Charles Leclerc, il pilota della Ferrari. Oggi ci sarà il Gran Premio e, come avete sentito nel GR, le prove sono andate molto male. Vettel partirà 17° e Leclerc 13°. Vi dicevo, l'intervista del Ministro della Salute Speranza la trovate a pagina 3. Basta campagna elettorale sull'apertura delle scuole, così daremo i primi vaccini. Monica Guerzoni appunto torna anche su questo tema poi dei verbali del CTS, prima secretati poi desecretati, e questo studio sul quale chiede lumi anche Matteo Salvini. La Repubblica, elezioni, l'arrocco di Conte, resto anche se si perde. Vedete, sono sempre le parole di Conte, ma appunto ogni giornale ne sceglie una parte diversa. La foto è dedicata alla manifestazione che c'è stata ieri a Roma di fronte alla Bocca della Verità, il raduno dei negazionisti tra slogan e cartelli, la adunata a Roma del popolo no mask. In prima pagina anche la questione della Ferrari, con un lungo articolo di Marco Mensurati che poi trovate alle pagine 34 e 35, Monza, profondo rosso, le Ferrari dietro a tutti. E poi, forse perché l'editoriale di Eugenio Scalfari, per chi ha comprato la Repubblica anche ieri, era sulla Repubblica di ieri, oggi in prima pagina, anziché il tradizionale appunto doppio editoriale del direttore Maurizio Molinari e del fondatore Eugenio Scalfari, c'è solo quello di Maurizio Molinari dedicato alla corsa al vaccino nella nuova guerra fredda Stati Uniti, Cina, Russia. Con la Repubblica, come ogni domenica, in edicola L'Espresso. Questa settimana in copertina c'è Elie Schlein, la ricorderete forse perché si era molto esposta quando ci sono state le regionali in Emilia-Romagna. Il coraggio di dire no, è infatti un esponente del PD dell'Emilia-Romagna, femminista, ambientalista, progressista di governo. Elie Schlein è il volto di una nuova generazione che vuole cambiare il modo di fare politica in mezzo a tanti ostacoli. Esame di una possibile leader. La Stampa, Conte allontana Draghi e apre al Mattarella bis, quindi un titolo abbastanza simile a quello della Repubblica. Tra l'altro la Stampa e la Repubblica, come sapete, appartengono allo stesso gruppo editoriale, che è la GEDI, che fa capo alla famiglia Agnelli. In prima pagina anche parte un commento di Marcello Sorgi, che della Stampa è stato anche direttore e ora è editorialista. Falsa ripartenza del Premier Cupo. Il Premier Cupo naturalmente sarebbe Conte. Anche per la Stampa la foto è dedicata alla manifestazione di ieri davanti alla Bocca della Verità. Alunni, prof, impiegati, la battaglia dell'esercito dei fragili, quindi la foto è appunto dedicata ai negazionisti, ma l'approfondimento in realtà è alle misure che ci saranno dopo le polemiche che c'erano state su chi aveva chiesto l'esonero tra i professori del rientro, tra i professori e del personale scolastico per il rientro a scuola del 14 settembre per ragioni di età o di malattia, e ora appunto ci sono state alcune precisazioni da parte del Ministero della Salute. Prima pagina anche altre due notizie, le dichiarazioni di Amadeus, il presentatore che dopo aver con successo condotto l'edizione 2020 del Festival di Sanremo, sapete è già stato scelto per condurre quella del 2021, ma dice a Sanremo senza pubblico non si può fare. E poi un po' di cronaca anche su come Silvio Berlusconi sta trascorrendo la sua degenza al San Raffaele, ginnastica a riposo e poi Milan Monza in televisione. Avvenire ha un titolo diverso perché la notizia la trovate anche sugli altri quotidiani, ma ovviamente Avvenire, quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana, dei Vescovi Italiani, ci apre ed è l'annuncio della nuova enciclica di Papa Francesco, la terza, Fratelli Tutti si intitolerà, e verrà firmata da Assisi il 3 ottobre. Al centro della lettera l'amicizia sociale nel mondo segnato anche dal virus. In prima pagina anche qui una notizia, una vicenda che trovate anche sugli altri altri quotidiani, ma non in prima pagina, il dramma di Alain Coq, un uomo francese, 57 anni, affetto da una malattia degenerativa rara, che aveva chiesto di trasmettere in diretta Facebook la sua fine, e Facebook ha negato questa possibilità. Spenta da Facebook l'eutanasia in diretta. In prima pagina anche il tema della manifestazione di ieri a Roma dei cosiddetti negazionisti del Covid. I negazionisti fanno flop mentre crescono i morti. Ricorderete, si calcola insomma 1.000-1.500 persone ieri a Roma. Alcune delle persone che erano personalità più conosciute, che erano state all'inizio annunciate come Vittorio Sgarbi, poi in realtà non si sono viste, e sicuramente perché flop, perché rispetto a manifestazioni diciamo analoghe in altri paesi, in primis la Germania, sicuramente 1.500 persone sono un flop. Il Messaggero ha un titolo diverso, perché il Messaggero ha una intervista a Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia. Il titolo dell'intervista è «Roma umiliata dal governo, la capitale tagliata fuori da tutto anche per il disinteresse del sindaco». E poi però il riferimento alle parole di Conte: Conte si blinda, Draghi lo volevo all'Unione Europea ma disse che era stanco, apre al Mattarella bis. L'intervista a Giorgia Meloni l'ha trovata a pagina 3. Roma grande dimenticata, colpa di un sindaco inadeguato al suo ruolo. Dall'altro il governatore segretario, che naturalmente è Nicola Zingaretti, che anche tra le polemiche ha sempre mantenuto questo doppio ruolo di presidente della Regione Lazio e leader del Partito Democratico, dice Giorgia Meloni, questa è la sua opinione, il governatore segretario del PD è ben lieto di assistere al tracollo del Movimento 5 Stelle. La Verità ha un titolo molto polemico, perché ieri non si capisce se forse per stanchezza, per un lapsus, Giuseppe Conte ha detto che le vittime del Covid in Italia sono state 134-135 mila, in realtà sono 100 mila in meno, sono 35 mila, intervistato da Padellaro, che non ha di fatto osato sottolineare, fargli notare l'errore. E quindi la Verità: Conte inventa 100.000 morti in più. Questo è il titolo a tutta pagina. La foto è dedicata a Carlo De Benedetti, che già alla notizia la sera del ricovero di Silvio Berlusconi al San Raffaele gli aveva fatto gli auguri, aggiungendo, dovrebbe spiegare lui perché non c'è logica in questo secondo me, aggiungendo che però Berlusconi ha fatto male all'Italia. Contestata questa dichiarazione, quantomeno infelice, il giorno dopo, in particolare dalla figlia Marina Berlusconi, De Benedetti ha deciso di rincarare la dose, e quindi la Verità titola: Carlo De Benedetti non è come il vino, invecchia malissimo. Il Giornale: Berlusconi stabile ma l'odio avanza. Naturalmente il titolo è giustificato anche dal fatto che il Giornale è controllato e di proprietà della famiglia Berlusconi. Ci sono le dichiarazioni del medico personale di Silvio Berlusconi, Zangrillo, nonché primario del San Raffaele: cauto ottimismo. Marina è l'ex moglie, una folle caccia al colpevole. Qui il riferimento è ai retroscena pubblicati ieri da numerosi giornali, secondo i quali ci sarebbe uno scontro interno, in particolare tra le figlie di Berlusconi, la primogenita Marina Berlusconi e le figlia della prima moglie di Berlusconi, e poi le figlie della seconda moglie di Berlusconi, Veronica Lario, che si sarebbero accusate, o meglio la figlia maggiore avrebbe accusato, ma ora smentisce, le sorelle minori di aver contagiato il padre, perché erano rientrate dalla Sardegna, dove avevano avuto contatti con persone già positive al virus. Noi ci lasciamo però un attimo, sentiremo anche gli aggiornamenti sul meteo. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, ben ritrovati. Eravamo sulle prime pagine dei giornali italiani, ce ne manca ancora qualcuna. Libero ha questo titolo: Putin ha il vaccino ma nessuno lo vuole. Secondo Antonio Socci, noto virologo, farmacologo, epidemiologo, infettivologo, l'antidoto russo è efficace però ignorato perché politicamente scorretto. In Italia non ci sono malati abbastanza gravi per testare il siero. La foto però è una foto, un fotomontaggio in realtà, di Silvio Berlusconi che guarda Veronica Lario e Alessandro Giuli, poi a pagina 4, Veronica in ansia per la salute di Berlusconi. C'è anche la cronaca degli interventi di Conte, la fa Pietro Senaldi con direttore di Libero. Mattarella sgrida Conte che cerca di rabbonirlo. Il presidente è stufo del bla bla del premier. Il Fatto Quotidiano, che come vi ho detto ha ospitato ieri Conte alla sua tradizionale festa di fine estate. Conte sulle regionali, comunque vadano, il governo va avanti. La festa del fatto, Mario Draghi lo volevo alla guida dell'Unione Europea, il bis di Mattarella magari. Moltissime dichiarazioni, devo dirvi che a me in particolare ho sentito alla televisione parte dei due interventi di Conte. Qui appunto sul Fatto Quotidiano a pagina 2 c'è anche la foto sul palco, come vi dicevo, di Conte con Peter Gomez e Antonio Padellaro. Quello che mi ha colpito non è tanto l'lapsus evidentemente sui morti, ma il fatto che abbia detto di augurare a Silvio Berlusconi una pronta guarigione, perché sa che ha contratto il virus del Covid-19. Ora, il Covid-19 è la malattia, il virus è il coronavirus o SARS-CoV-2. Questo più che altro mi ha colpito, che ancora si confonda, come diceva Alberto Mantovani in un'intervista al Corriere della Sera una decina di giorni fa, il virus con il nome del virus con la malattia. Per dire che insomma il numero dei morti sicuramente è un errore, perché è anche un errore grossolano, però penso quasi certamente un lapsus. Il Manifesto, il Conte Draghi. Conte si blinda e scaccia il fantasma di Mario Draghi a Palazzo Chigi. È stanco, inutile tirarlo per la giacca. Sulle regionali mette le mani avanti, anche se perdiamo il governo non rischia. E poi in prima pagina anche la notizia del raduno, secondo il Manifesto, di centinaia di persone organizzato da Forza Nuova, il partito di estrema destra, e il Popolo delle Mamme. I complottisti gettano la maschera. Adesso torniamo sul Sole 24 Ore, le pagine interne. In questo caso la foto di Conte è scattata durante l'intervento di ieri al Forum Ambrosetti a Cernobbio. Emanuela Perrone si concentra soprattutto su quello che ha detto sul recovery plan, che come sappiamo deve ancora essere messo a punto per poi essere presentato a Bruxelles e avere i miliardi, oltre 200, del recovery fund. Ricordiamo che la Francia per esempio l'ha già presentato questo recovery plan, noi speriamo di presentarlo presto. Conte, due punti: per ridurre le tasse non useremo il recovery plan. Sarebbe veramente l'uso, lo hanno detto più volte anche esponenti della Commissione Europea, non è questo l'obiettivo, usarlo per ridurre le tasse. Il piano preceduto da linee guida che saranno presentate in Parlamento la settimana prossima, commissari per i progetti in ritardo, poi corregge azioni deterrenti. Sul Recovery Fund si è espresso anche Paolo Gentiloni, commissario agli affari economici della Commissione Europea, e anche lui dice no a tagli fiscali generalizzati. Paolo Gentiloni era ospite del Forum Ambrosetti di Cernobbio. E poi vi segnalo le pagine 6 e 7 del Sole 24 Ore, dove ci sono proprio divisi per focus le priorità che l'Italia dovrebbe darsi secondo un rapporto dell'Istituto Aspen. Economia da riprogettare, Stato facilitatore, non imprenditore, con i differenti focus su imprese, investimenti, infrastrutture, innovazione e istituzioni. Vi dicevo l'approfondimento sulle fiere, su un nuovo modello di fiera. Diciamo sempre che anche quando torneremo e stiamo tornando alla normalità, in realtà sarà una nuova normalità. E per quanto riguarda le fiere, Giovanna Mancini ci spiega, pagina 9 del Sole 24 Ore, fiere diffuse, modello antivirus, dalla Design Week a Vicenza Off, perché come vi ho detto, insomma, si stanno avvicinando i primi appuntamenti che hanno sempre delle formule miste. E a proposito di fiere diffuse, Paco Guarnaccia, che è stato di recente, lo ha raccontato anche sul Sole 24 Ore di venerdì, alla fiera di Ginevra, la fiera dell'orologeria. In questo caso in realtà è un nuovo format, è stato il debutto questo dal 26 al 29 agosto, Geneva Watch Days, proprio secondo una formula diffusa, cioè tanti piccoli appuntamenti super contingentati in diversi luoghi della città. La sezione Lifestyle è un approfondimento su Eindhoven, la città olandese, ce lo racconta Enrico Marro, design, talenti e tante start-up. E poi, visto che ne parlavo prima con Carmelo, ne parlavo nei giorni scorsi con Carmelo Lauricella, ma anche con la collega Rosanna Magnano che avete sentito nel GR, sarebbe veramente il momento di visitare le città d'arte che sono di fatto deserte. Io questa settimana ho avuto la fortuna di passare qualche giorno a Firenze e in effetti credo che non avremo mai più nella vita un'opportunità di vedere Firenze, Roma, ma anche Venezia così senza turismo. È naturalmente una condizione che speriamo finisca presto, perché il turismo è la principale fonte economica di queste città, però intanto per cause di forza maggiore la situazione è questa. E Giambattista Marchetto nella sezione Lifestyle ci racconta: ecco l'altra Venezia con le isole segrete e i sapori di laguna, alla scoperta della città naif in compagnia e ospiti dei pescatori. E poi la consueta pagina della domenica dedicata a sport e business. Come sapete, il Tour de France è stato la prima gara ciclistica del post lockdown, e racconta Mario Nicoliello Tour de France in una bolla per salvare 150 milioni. Grazie a un rigido protocollo anti-Covid, la prima settimana è trascorsa senza intoppi e si cerca così di garantire il giro d'affari complessivo. La carovana arriverà a Parigi il 20 settembre e poi c'è il mondiale sempre di ciclismo a Imola dal 24 al 27 settembre. Passiamo al Corriere della Sera, a un approfondimento sulle condizioni di Silvio Berlusconi a pagina 10, ma su questo vi segnalo, perché ogni tanto in Italia qualcuno chiede scusa, qualcuno non trova delle giustificazioni assurde come qualcuno ha usato il mio computer o il messaggio è partito dal mio telefono ma non sono stato io a digitarlo, il gatto ha camminato sul mio iPad. Siccome il linguista e saggista Raffaele Simone, che è linguista e sarebbe anche un filosofo, è stato tra quelli a avere delle uscite molto infelici dopo la notizia del ricovero di Silvio Berlusconi perché positivo al Covid e poi anche sintomatico, se l'è andata a cercare a Berlino, c'è un giudice a Berlino, forse questa è la volta buona, delle cose irripetibili, e infatti si scusa. Tra l'altro la cosa era stata stigmatizzata da Massimo Gramellini ieri sulla prima pagina del Corriere della Sera nel suo caffè. E oggi Cesare Zapperi a pagina 10 del Corriere, ripeto, questa cosa è insolita per gli italiani quando sbagliano, soprattutto complici i social, e dice: sono stato letteralmente investito di insulti e di minaccia, mi siano inaugurato di morire, la mia uscita infelice non giustifica né autorizza la valanga di odio, ma di questo non si parla. E poi a Berlusconi: gli auguro di cuore una pronta e completa guarigione. Dice comunque quel post contro di lui la mia uscita più infelice, e direi proprio di sì. A proposito di uscite infelici, ne ha fatte tantissime negli anni scorsi, ma non ha mai chiesto scusa e non gli sono costate alcunché, anzi, appena avuto un nuovo incarico. Parliamo di Tony Abbott, 62 anni, capo conservatore del governo australiano dal 2013 al 2015, ora è stato nominato consulente per il commercio dopo post-Brexit da Boris Johnson. Misogino e omofobo, tempesta politica a Londra per la nomina di Abbott. Tra le piacevolezze uscite dalla bocca e anche dal cuore, dalla mente di questo signore ci sono: gli uomini sono per fisiologia e temperamento più adatti a essere autoritari e a comandare. Sono contro le nozze gay perché non cambierebbero solo la natura del matrimonio ma di tutta la società. E poi, questa se tra le più gravi, gli anziani malati di Covid-19 dovrebbero essere lasciati liberi di morire. Poi vi segnalo dal Corriere della Sera questa bella storia, la racconta Elisabetta Andreis. Ne avevamo parlato anche noi sul Sole 24 Ore circa un anno fa, ma ovviamente adesso ci sono aggiornamenti e dati diversi, ed è quella dell'Istituto di Vendite Giudiziarie del Tribunale di Milano, nel Museo dei Fallimenti. Aerei, yacht, Rolls Royce sequestrati e messi all'asta, tesori per 3 milioni di euro. Naturalmente la crisi che ha colpito anche le persone con più disponibilità ha costretto anche loro evidentemente a tagliare spese o a liberarsi di alcuni beni superflui, potremmo dire, appunto ha dato impulso a queste vendite all'asta. Tra l'altro la società che gestisce l'Istituto di Vendite Giudiziarie del Tribunale, che collabora con l'Istituto di Vendite Giudiziarie del Tribunale di Milano, ha anche ed è il primo caso in Italia, un negozio, un vero e proprio negozio dove si vendono alcuni beni, quelli naturalmente non le Rolls Royce, ma beni più facilmente maneggiabili, abbigliamento, accessori, sempre frutto di fallimenti. E poi vi segnalo dal Corriere della Sera una bella e lunga intervista, una pagina intera di Paola Pollo a Giorgio Armani, perché tra gli eventi che riprenderanno in una forma più o meno normale c'è la Settimana della Moda, che si terrà a Milano dal 22 al 28 settembre, e però ci sarà chi comunque sfilerà con una modalità digitale. Invece Giorgio Armani ha scelto una modalità ancora diversa, una sfilata in televisione, sarà in diretta sulla 7, durerà 40 minuti, perché in realtà una sfilata normalmente dura tra i 12 e i 15 minuti massimo. Qui ci sarà prima una sorta di intervista a Giorgio Armani e anche dopo. Il titolo dell'intervista è "Porto la mia sfilata in televisione, sarà uno show in diretta". Ultima segnalazione prima di una pausa per l'aggiornamento sulla viabilità, dalla Repubblica. Agostino Miozzo, che è coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, dice: non avevamo un piano segreto, abbiamo taciuto i numeri per non seminare il panico. E con questo ci lasciamo per l'aggiornamento sulla viabilità. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e grazie a tutti gli ascoltatori per l'ascolto e a chi sta mandando messaggi al 349-238-6666. Seguo il consiglio di non leggere, di non fare inutili polemiche, ma certo che all'ascoltatore che si chiede dove sarebbe la gravità delle prime due affermazioni di Abbott che ho citato, io non rispondo neanche, perché per me è ovvio dov'è la gravità. Se per lui non lo è, ognuno è libero di pensarla come vuole. In fatto di capacità di leadership degli uomini, che per Abbott è l'unica capacità di leadership che esiste, e sull'opportunità del matrimonio tra persone dello stesso sesso. Invece una bella storia la racconta Daniele Mastrogiacomo a pagina 15 della Repubblica. Parlare come gli indios, il guaraní è lingua viva. In Paraguay ormai lo usa il 70% della popolazione, simbolo dell'orgoglio e della resistenza all'idioma dei conquistadores, che è ovviamente lo spagnolo. A proposito di turismo, e tra l'altro un ascoltatore da Venezia mi segnala che in realtà a Venezia ci sono molte persone, ci fa soltanto piacere. E un altro ascoltatore che dice che mi dimentico sempre di citare Napoli tra le città d'arte, ha perfettamente ragione, non so se me ne dimentico sempre, ma ha perfettamente ragione sul fatto che oltre a Firenze, Roma e Venezia, sicuramente Napoli è una delle nostre più grandi città d'arte. Forse tante altre città sono forse più piccole, ma comunque sono città d'arte a loro modo. Penso per esempio a Lecce o insomma a tantissime altre, non vorrei davvero fare torto a nessuno. Ma a proposito di turismo, pagina 25 della Repubblica, Marco Patucchi fa un po' il bilancio di questa estate molto strana per il turismo. Nel turismo persi 100 miliardi, ci vorranno 3 anni per recuperare. La ripresa d'agosto è stato un miraggio, durato solo pochi giorni, vuoto anche settembre, in calo l'indice della propensione al viaggio. E poi vi segnalo dalle pagine di Cultura della Repubblica una recensione di Nadia Terranova al nuovo libro di Gianrico Carofiglio, che si intitola "Della gentilezza e del coraggio", e appunto impariamo la strategia della gentilezza. È la prima regola del breviario scritto da Gianrico Carofiglio, dove la cortesia non è rinuncia al conflitto, ma inclinazione al combattimento, con la sicurezza della vittoria finale. Sicuramente chi ha, tra l'altro Gianrico caro figlio interverrà a molti festival che stanno un po' anche loro tornando alla normalità, interverrà a numerosi festival, e come chi probabilmente lo ha visto in televisione sa che non sono solo parole, nel senso che forse gentile non è forse la parola giusta, ma sicuramente calmissimo sempre, anche di fronte alle provocazioni e alle parole, ai toni più aggressivi. In questi vi segnalo ancora in realtà una storia, la racconta la Stampa nelle pagine della cronaca di Torino: botte e violenze sulle donne, in estate un arresto al giorno. Nel torinese tra giugno e agosto 3 omicidi e 49 uomini in manette, episodi in aumento rispetto agli anni scorsi. Questo riguarda il torinese, ma in realtà i dati poi sono anche nazionali, cioè, e non soltanto italiani. In tutti i paesi durante il lockdown sono aumentate le violenze domestiche, che nella stragrande maggioranza dei casi sono di uomini contro le donne e di uomini contro i figli. Vi segnalo, a proposito di sempre una conseguenza nefasta del lockdown e dell'emergenza sanitaria ed economica, Avvenire con Antonio Averaimo, che racconta Napoli, il welfare della camorra. Nella città piegata dal lockdown e dalla crisi si fa largo il ricorso alla criminalità per ricevere aiuti. L'allarme per l'impennata dell'usura e per il fenomeno delle truffe agli anziani, vulnerabili a rischio. Vi dicevo, l'approfondimento del Messaggero sulla questione di chi potrà evitare di tornare a scuola, corpo docente o personale scolastico. Le assenze per Covid, prof e lavoratori a rischio, l'età avanzata non basta per poter restare a casa, insegnanti in classe anche dopo i 55 anni se non sono affetti da patologie particolari. La circolare interministeriale è basata sullo studio di contagi e morti per il virus. E prima di passare alle pagine degli supplementi culturali, a proposito di supplementi culturali, questo non è della domenica, sono le pagine che tutti i giorni il Messaggero dedica appunto a cultura e spettacolo. Oggi l'approfondimento di Andrea Concas è su Banksy, lo street artist, forse il più famoso street artist al mondo. L'importanza di chiamarsi Banksy. Ha creato la Pest Control, che cerca di limitare i furti di opere e la mercificazione della sua arte. Ma vi dicevo, passiamo ai supplementi domenicali. Cominciamo come sempre dalla Domenica del Sole 24 Ore e come sempre dal Breviario di Gianfranco Ravasi, che questa settimana parte da una citazione di Mark Twain, che è questa: il coraggio è resistenza alla paura e dominio della paura, non assenza di paura, scrive Ravasi. La parola coraggio può diventare un ombrello dalle vele molto larghe che coprono anche varie degenerazioni come l'arroganza, l'insolenza, la faccia tosta, l'impudenza, la presunzione e così via. Ci sono figure pubbliche che vengono additate come fossero capitani coraggiosi, mentre in realtà sono solo spregiudicati o imprudenti. In realtà colui che tiene in mano strettamente questo ombrello è il vero coraggioso. La sua caratteristica primaria, come suggerisce lo scrittore americano Mark Twain nella frase sopracitata, è avere un cuore, proprio secondo l'etimologia del vocabolo, e avere animo nell'affrontare i grovigli della vita senza diserzioni e viltà. Essere coraggiosi non esclude la paura, ma la domina per custodire la coerenza coi propri valori e con la coscienza, vincendo viltà, comodità e interessi personali. Insomma, vuol dire essere diversi dal Don Abbondio manzoniano, convinto che il coraggio non lo si può infondere nel proprio cuore e nell'azione, e quindi ci si deve rassegnare alla fuga o al compromesso. La storia di copertina vera e propria però è un lungo articolo di Salvatore Settis che torna sul patrimonio culturale italiano. Roma, la capitale sì bella e venduta, fatti e personaggi che portarono tra il 1870 e il 1911 al rinascimento culturale ed edilizio di Roma, ma anche a gravi dispersioni di tesori artistici non ancora protetti dalle leggi di tutela che poi arrivarono dopo. Poi vi segnalo, perché ho sentito l'intervista bellissima ieri al cacciatore di libri di Alessandra Tedesco, a Paolo Nori. Questa recensione la fa Gianluigi Simonetti sul Sole 24 Ore, a quest'ultimo libro di Paolo Nori, famoso soprattutto per i suoi saggi. Questo invece è un romanzo, un giallo, che si intitola Che dispiacere, un'indagine su Bernardo Barigazzi, lo ha pubblicato Salani, e l'intervista, la recensione si intitola Libro impersonale eppure autobiografico. È molto interessante qui la recensione di due libri in inglese di Patrizia Caraveo, La bella estate di Viaggi marziani. Nelle ultime settimane sono state lanciate verso il pianeta rosso tre sonde che hanno approfittato della combinazione orbitale favorevole per minimizzare il percorso, ma l'essere partiti è solo il primo passo. E appunto, per approfondire il tema, ci sono questi due libri in inglese che Patrizia Caraveo cita. E poi un altro invece libro, un'altra recensione molto lunga, un libro che deve essere bellissimo, di Mary Shalev, Il mio giardino selvatico, pubblicato da Bompiani, la recensione di Antonio Perazzi, Paradiso di piante selvatiche. Osservando le piante spontanee si comprende appieno la natura di cui facciamo parte. È quello che si impara leggendo Mary Shalev. Accanto ad ambienti creati per stupire ci sono quelli che aiutano a pensare. La lettura, il supplemento culturale della domenica del Corriere della Sera, la copertina come sempre affidata a un artista, questa settimana è Stanley Whitney, una copertina molto colorata. La prima parte, le prime sette pagine sono come sempre un approfondimento e quello che la lettura definisce il dibattito delle idee, e è il famoso scontro generazionale, l'esuberanza dei giovani contro la resistenza degli anziani, e una conversazione tra Simone Argentieri, Eugenio Borna, Chandra Candiani, Emanuele Coccia, Salvatore Natoli, Antonio Prete, curata da Paolo Di Stefano. E poi una bella intervista di Patrizia Violi a Stephen Fry, che è un personaggio eccentrico, è attore, autore, ha scritto molti libri, in particolare negli ultimi anni si è dedicato alla mitologia greca, e infatti i due libri citati qui sono uno Mitos e l'altro Eroi. E su questo si concentra l'intervista, sul rapporto di Stephen Fry con la mitologia greca. Zeus ci ha dato internet, ma l'abbiamo guastato. Attore, autore di 15 volumi, usava l'email già negli anni 80, è appassionato di miti, sta per pubblicare in Gran Bretagna il terzo titolo sulla Grecia antica. Lì, dice, sono le basi della nostra rivoluzione tecnologica. Vi segnalo anche due interessanti recensioni di Viviana Mazza, sempre bravissima a scovare persone, soprattutto negli Stati Uniti. Mi ricordo anche l'anno scorso era anche stata negli Stati Uniti per un periodo in estate. Qui intervista Carmen Maria Machado, che ha appena pubblicato un memoir intitolato Nella casa dei tuoi sogni. Padre di origini cubane, austriache, madre americana, lei rompe un tabù perché è anche omosessuale. Per noi omosessuali è rassicurante rappresentarci migliori degli altri per essere degni dei diritti che ci spettano, invece certi stereotipi che sembrano positivi in realtà non permettono di esprimere la vera umanità, difetti compresi, c'è sempre un gesto che ci discrimina. E purtroppo qui finisce il nostro tempo, anche se avevo messo da parte tante altre segnalazioni. Su Robinson, tra l'altro, di Repubblica, vi segnalo l'elenco di tutti i festival, le manifestazioni che hanno il coraggio di ricominciare, soprattutto quelle legate alla cultura. Ringrazio Carmelo Lauricella in regia, ringrazio tutti voi per l'ascolto, ancora una buona domenica da Giulia Crivelli. Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite su Aruba.it